Il diario di Q. Roma, 17 aprile 1550. Il nuovo Papa ha riformato la congregazione del Sant'Uffizio. Carafa e De Cupis, zelanti. Polle, morone, spirituali. Cervini e sfrondato, non allineati. Vuole accontentare tutti e nessuno. Giulio III è un armistizio momentaneo, una coperta che zelanti e spirituali si contenderanno a morte. Carafa passa le giornate in trattative fitte, come se il conclave non fosse terminato. Mi ha scritto di aver preso i pidocchi là dentro, in mezzo a quei vecchiacci più morti che vivi. 74 anni, più vecchio del Papa e quasi non dorme. Vorrei avere le stesse energie, invece sono qui, in attesa di ordini, fermo da settimane, a fare inutili passeggiate per i colli di Roma, a rallegrarmi del clima mite di questa stagione, come un vecchio arnese alla fine dei suoi giorni. Ho scritto di nuovo agli inquisitori di Mezza Italia per reperire informazioni su Tiziano. Ancora niente. Roma, 30 aprile 1550. Tiziano a Firenze. Pier Francesco Riccio, maggiordomo e segretario di Cosimo de' Medici. Pietro Carnesecchi, vecchia conoscenza viterbese, già processato nel 47 e assolto per intercessione papale. Benedetto Varchi, lettore dell'Accademia Fiorentina proveniente dal Circolo degli Infiammati di Padova. Cosimo Bartoli, console dell'Accademia Fiorentina e già lettore del Beneficio di Cristo. Anton Francesco Doni, letterato, staffetta fra Firenze e Venezia. Pietro Vettori, amico di Marcantonio Flaminio e corrispondente del Cardinale Paul. Jacopo da Pontormo, pittore eccellente e il suo allievo, bronzino. Anton Francesco Grazzini, detto il Lasca, poeta fustigatore della Chiesa. Pietro Manelfi, chierico marchigiano. Lorenzo Torrentino, stampatore. Filippo del Migliore e Bartolomeo Panciatichi, patrizi. La nutrita cerchia dei cripto-luterani fiorentini. Trascorsi differenti, approdati nello stesso posto, sotto l'ala protettrice del duca Cosimo I de' Medici, mecenate, e avversario acerrimo dei Farnese, sempre pronto ad attizzare il fuoco della polemica antipapale per il proprio interesse. Tiziano ha sguazzato per tutto lo scorso inverno in quello stagno. Lì ha trascorso i giorni del conclave, tra i più accaniti sostenitori di Reginald Paul. Gli inquisitori riferiscono che più di tutte preferisse la compagnia del pittore Pontormo e del suo allievo bronzino. Ormai sessantenne, Jacopo da Pontormo trascorre notte e giorno a quella che sembra il suo sforzo più grande, l'affresco della Basilica di San Lorenzo, commissionatogli da Pietro Francesco Riccio per conto di Cosimo I. La massima segretezza avvolge i lavori, anche le bozze dei disegni preparatori sono celati. Solo il bronzino e pochissimi altri possono accedere alla visione di ciò che il maestro sta facendo. Voci, missive anonime recapitate all'Inquisizione fiorentina, l'occhio indiscreto di qualche frate. Pontormo sta rappresentando in dettaglio il beneficio di Cristo nell'abside della chiesa in cui dovrà essere tumulato Cosimo de' Medici. Dalla fine del conclave non si hanno più notizie di Tiziano a Firenze. Roma, 8 maggio 1550. Carafa contava sui francesi, ma le notizie che giungono dalla Francia dicono che Enrico II non può permettersi di riprendere la guerra contro l'Asburgo, là dove suo padre l'ha lasciata, perché gli occorrono dei finanziamenti che nessuno è disposto a concedergli. Carafa dice che l'imperatore si sta impegnando per trovare un accordo con i teologi luterani e se ci riuscisse, gli spirituali potrebbero ancora avere la meglio. Carafa vuole allontanare Paul da Roma, lo vuole fuori dall'Italia. Carafa dice che in Inghilterra sta per scoppiare una guerra di successione. Enrico VIII è morto, lasciando dietro di sé uno stuolo di figli che si contendono la corona. Carafa dice che bisogna preparare il terreno per la riconquista cattolica dell'Inghilterra e che bisogna fare in modo che l'impresa sia affidata a Paul. Carafa dice che devo andare in Inghilterra per prendere contatti con i sostenitori di Maria Tudor, devota al Papa, intenzionata a contestare la corona del fratellastro. Carafa parla di un incarico delicato e importantissimo che può assegnare soltanto al suo servitore più fidato. Carafa non ha mai parlato in questo modo. Carafa serve cicuta in una coppa d'argento. Prima o poi doveva succedere. Carafa mi toglie dalla partita maggiore, quella che ho seguito dall'inizio. La stella di Quelet è tramontata. In Inghilterra, a trattare con quattro nobilastri ignoranti e malvestiti. In Inghilterra, l'operazione beneficio non è più mia. Penso che forse non tornerò. Forse non ci arriverò neanche a Londra. Incontrerò la lama di un sicario lungo la strada, lontano dagli occhi di tutti. Il mio tempo è scaduto. I segreti di 30 anni fanno paura a chi si appresta ad aprire un nuovo capitolo della lotta per il potere assoluto a Roma. Ci sono giovani fanatici e inconsapevoli. C'è Ghisleri, il Dominicano, ci sono i Gesuiti. Anche lo spazio si è esaurito. È ora di passare la mano. Sono stanco, spaventato e stanco. Il bagaglio è pronto e lo guardo come se non fosse mio. Pochi stracci, ereditati da una vita che finisce senza chiasso. Il pensiero mi accompagna da tempo, ma non pensavo sarebbe accaduto così in fretta, con questo sentimento di banalità nel cuore. Non è così che ci si prepara. Vorrei lasciare queste pagine a qualcuno, la testimonianza di quanto è stato compiuto. Ma per quale motivo? Per chi? Noi solchiamo i meandri della storia. Noi siamo ombre di cui le cronache non parleranno. Noi non esistiamo. Ho scritto per me, soltanto per me. A me stesso dedico e lascio questo diario.